questioni, il che non mi permette appunto di essere in diretta. Per cui, al contrario di venerdì scorso, non telefonate e non lasciate messaggi, perché come al solito siamo registrati. E dunque, la settimana prima ancora invece ero a Shanghai, dove ho potuto registrare delle cose un po' particolari, come questo duo a Shuju che cantava una canzone tradizionale così. One and two. Devo dire che alcuni personaggi che abbiamo incontrato a Shanghai sono veramente interessanti, come Leo Zhu, che ho notato in un angolo del suo studio che aveva una chitarra, allora l'ho tirata fuori e gli ho detto: dai, cantaci qualcosa, sentite che urli che ci ha fatto sentire. Piove sulle verifiche condivise, sulle feste di fine anno, sulle canzoni e sulle facezie. Piove sulle tamerici salmastre, sulle poesie per il sindaco e sulla piattaforma Indire. Maggio, che mese di melma, o Ermione. Thank you. coxo spaziale. La settimana scorsa non sono riuscito a inserire gli opening di un po' di mostre che appunto sono aperte, hanno aperto sabato scorso, tra cui questa collettiva Days and Ornament con Giovanni De Francesco, Giada Fiorindi e Federico Floriani e Tommaso Gatti a cura di Andrea La Carpia a Locale 2, che purtroppo però ha già chiuso perché ieri ha aperto una nuova mostra che si chiama Verge of Collapse, Niccolò De Napoli e Michele Tiberio a cura di Alessandra Arancio, e per cui niente, questa non l'avete vista, mentre invece sabato scorso ha aperto sempre in zona lì in via Azzo Gardino The Malpighian Layer, una collettiva a Cardrde, sempre di fianco a Locale 2, con Amélie Bouvier, Inga Meldere, Giulio Saverio Rossi, che abbiamo sentito fra l'altro qualche puntata fa raccontarci del suo spettro a Santo Stefano di Magra, e Jonathan Van Dornum e Thijs Vendt. Una mostra a cura di Bruno Barsanti e di Gabriele Tosi. Speravo di avere il comunicato stampa. Ah sì, invece eccolo lì. Dice, collettiva che include opere, vabbè, quelle l'abbiamo detto, lo strato malpighiano. Effettivamente The Malpighian Layer significa lo strato malpighiano, è la parte più profonda dell'epidermide. Trae il nome dallo scienziato italiano Marcello Malpighi, nato nel 1628 a Crevalcore, vicino a Bologna. In questo livello interno le cellule sono continuamente rigenerate tramite mitosi, migrando poi verso l'esterno per sostituire quelle perse in superficie. Malpighi poté descrivere questo fenomeno grazie all'innovativo uso del microscopio negli studi degli organi, che insomma per il 1600 è abbastanza interessante. In senso metaforico, le immagini generate dai lavori in mostra possono essere considerate come il livello più esterno di una pelle estesa in materiale, verso cui risale lo spettro di un substratum culturale o strutturale spinto in superficie dallo stato interno. Questo movimento provoca un cambiamento nella percezione. L'abituale oscurità di qualcosa di negativo che solitamente accompagna la positività dell'immagine è qui richiamata nei processi che permettono all'immagine stessa di apparire. Avvalendosi di diverse strategie, le opere esposte denotano quindi la natura artificiale fallace della visione. Categorie spaziali e temporali come qui e l'altrove, il prima e il dopo, diventano di più difficile determinazione e appaiono come fuse le une con le altre in un legame mutevole. Cioè, se noi entriamo in questa mostra, vediamo soprattutto opere di arte astratta, ed effettivamente per i non addetti ai lavori è una mostra che magari non ci attira più di tanto, anche perché non è particolarmente di impatto visivamente, eccetera. Ma invece vi invito ad andarla a vedere e soprattutto di osservare la prima opera che trovate appesa in mezzo alla galleria davanti, che sembra semplicemente un'opera su tela, una tela un po' particolare, perché effettivamente se ci fate caso è sì un'opera su tela, ma in realtà quella tela è stata calcata, cioè è stato fatto un calco di quella tela di resina, e la resina è stata colorata internamente, per cui in realtà quello che sembra un dipinto non lo è per niente, e questo ve ne accorgete andando dietro all'opera. Questa è un'opera di Thijs Vendt, che effettivamente vi porta in un mondo che un po' appunto vi fa un po' capire il mondo astruso dello studio del pittore, no? Dello studio dell'artista. Cioè, quando c'è tantissimo pensiero all'interno dello studio dell'artista, all'interno della ricerca dell'artista, che poi esplode, ma in questo caso in realtà la ricerca è abbastanza minuta, tranquilla, non c'è questa esplosione di energia, ma che poi traspare nell'opera finita. E questa mostra effettivamente cerca di farvi vedere la ricerca interna dell'artista, cioè quanta ricerca c'è dietro a un'opera che magari in realtà uno potrebbe guardarla con superficialità e dire ah, è un altro quadro astratto. Se andate, non dimenticatevi di andare fino in fondo alla galleria, nello studiolo finale, e di controllare questa opera, questo piccolo quadretto di Giulio Saverio Rossi, che anche quello è fatto partendo dall'idea dello spettro visibile del nostro occhio, ovvero i due colori che sono ai margini di quello che il nostro occhio è in grado di recepire. Per cui da una parte c'è un rosso mattone, diciamo un rosso ferro arrugginito, e dall'altra parte invece c'è un violetto tendente al blu, eccetera. Oltre a questo, il nostro occhio non riesce a vedere. Poi all'interno di questo spettro vediamo milioni e milioni di colori. Giulio cosa ha fatto? Ha preso questi due colori dello spettro e li ha mischiati, ha costruito una composizione astratta di olio su tela, ma siccome quei due colori erano composti uno da ossido di ferro e l'altro non mi ricordo da che cosa, praticamente i due colori mischiandosi hanno fatto una reazione chimica per cui il violetto è completamente scomparso ed è una sorta di color melma chiara, una sorta di cipria marroncino. Così ha preso il suo posto, per cui se andate a vedere le sfumature di questo quadro sono veramente abbastanza particolari, per cui niente, andate a vedere questa mostra che, se non sbaglio, sta su fino al 28 luglio, per cui avrete tempo. Se siete in via Marconi a fare shopping, fermatevi un attimo a Cardre e naturalmente guardate anche la P420 che è lì di fronte e anche locale 2. Questa è una sorta di zona dell'arte. E poi di fianco abbiamo, non lontano, di fianco tra quella zona lì e il Mambo, abbiamo Galleria Più, che poi andiamo a scoprire dopo questa canzone. Questa era Ordinary Disco, Three Without Ma Blue. In realtà è una versione cinese e si pronuncia così. 三五马不如普通disco. Disco, che sarebbe disco. Ringraziamo la solita Suzuki Haru che ci ha dato il link per questa fantastica canzone un po' più allegra, perché effettivamente devo dire che ci sono cose che mi hanno un po' rattristato la settimana, per cui questo coxo spaziale è un po' così, un coxo spaziale così. Comunque, dicevamo, attorno all'angolo, stavamo parlando della zona Mambo e di quello che succede nel mondo dell'arte contemporanea. Sabato scorso ha inaugurato The Last of the English Roses di Yves Scherer. Non so come si pronuncia, Scherer forse, perché forse è un po' sì. Yves Scherer, artista svizzero che attualmente vive e lavora a New York, è una mostra personale di questo artista svizzero che lavora con l'appropriazionismo, ovvero, non so se conoscete questo termine, praticamente è a un certo punto della storia dell'arte nel secolo scorso ci siamo accorti che effettivamente prendere da altri non è necessariamente una cosa negativa, fino a spingerci ai limiti del copiare totalmente quello che fanno gli altri. Uno dei maggiori esponenti di questa sorta di corrente estetica, di corrente artistica, è Richard Prince, che probabilmente ne avrete sentito parlare. Praticamente negli anni 80 ha cominciato a fotografare i cartelloni delle pubblicità della Marlboro, per poi ristamparle in un formato da galleria con questi titoli Untitled Cowboy, per cui naturalmente la Marlboro non ha mai fatto nulla contro Richard Prince, perché in un certo senso istituzionalizzava il lavoro dei grafici e dei comunicatori di questa industria. Dopodiché, naturalmente, Richard Prince, oltre a fare dei dipinti interessanti, eccetera, cioè proprio la sua ricerca verte tanto proprio sull'idea di prendere le immagini che ci piacciono noi artisti. A un certo punto diciamo che scavalla, passa al limite, nel senso che prende un libro di fotografia di questi aborigeni di un fotografo francese, se non sbaglio, non mi ricordo il suo nome, e li rifotografa tutti e ci aggiunge delle sorte di piccoli tondi, piccoli cosi geometrici in maniera abbastanza approssimativa, e li stampa molto grandi e li espone vendendoli a dei prezzi stratosferici. E giustamente il fotografo, che è semi sconosciuto, fa causa a Richard Prince e giustamente, diciamo, la vince. Richard Prince, naturalmente, e in tutto questo Richard Prince ci guadagna anche lui, perché ci guadagna in ulteriore notorietà. Dopodiché fa un'altra operazione, anzi Richard Prince è anche attivo su Instagram e praticamente prende le foto di Instagram, cioè lui segue un sacco di gente, anche, soprattutto ragazze, soprattutto abbastanza, diciamo, cioè nel senso che ragazze che si espongono così in maniera abbastanza sessuata, e sotto gli mette delle tag sue. E naturalmente queste ragazze sono contente di avere un artista così importante e menzionarle. Dopodiché cosa fa? Salva tutto quanto, tutta la schermata, e ha fatto appunto a New York un'altra personale dove c'erano queste stampe molto grandi di queste ragazze prese da Instagram, e tutte quelle che sapevano di essere nella mostra praticamente hanno ricevuto, se non sbaglio, credo $15,000. Semplicemente per un post di Instagram che insomma non le è andata male. Il nostro amico Yves Scherer fa un'operazione abbastanza simile. Lui è ossessionato lui è ossessionato da Kate Moss, per cui prende un libro di Mario Testino su Kate Moss e non fa altro che aprirlo nella pagina che gli piace e poi farlo incorniciare in queste cornici abbastanza anni 80 anche loro, in queste cornici di plexiglass che appunto ci ricordano un po' i lavori anni 70, anni 80. Quello che voi vedrete in questa mostra è proprio questo, una serie di libri di cioè una serie di edizioni del libro di Mario Testino su Kate Moss che vengono incorniciati in varie pagine diverse. Naturalmente le foto sono meravigliose, Kate Moss è bellissima, le foto sono fantastiche e noi, cioè noi, il pubblico si chiederà appunto qual è l'operazione, qual è la creatività all'interno di un'operazione del genere. Ed effettivamente anche lui si spinge appunto nei meandri dell'appropriazionismo, arrivando fino a fare praticamente nulla, anzi addirittura probabilmente lui potrebbe aver telefonato direttamente, aver comprato online, che ne so, 10 copie di questo libro, le ha fatte spedire direttamente al corniciaio e poi per telefono gli ha detto: guarda, mi incornici pagina 25, pagina 37, pagina 18 e quant'altro. All'interno di questa mostra c'è un'altra pubblicazione interessante che invece prende delle immagini fatte da un paparazzo di Emma Watson e ne fa una sorta di fanzine molto molto, cioè ne fa una sorta di libro d'artista chiamato New York July 26 2012, New York il 26 luglio 2012. E è una mostra assolutamente interessante da non mancare, questa è a Galleria Più ed è in via del Porto 48. Anche lì la mostra sta su per un po' di tempo, fammi vedere dove c'è scritto fino a quanto dura. No, non c'è scritto, non lo so, comunque è inaugurato la settimana scorsa, starà su almeno un mesetto e non mancate di andare a vedere anche questa. Molto bene, e anche naturalmente Laura Grisi alla P420. Basta, adesso procediamo con la nostra 220esima puntata di Coxo Spaziale. Qualcun altro per dispersi, ma noi l'abbiamo vinta senza scherzi. Anche se il ministro era impegnato con il jazz, il presidente con le belle donne e il suo maggiordomo con i versi. E i cattivi bastardi se ne sono andati, che volevano spiegarsi, non ci siamo parlati, che volevano traslocare, li abbiamo sistemati, che volevano volare, li abbiamo lanciati. L'amore, l'amore lieve, i campioni ridati. Ma chissà se è vero il trambusto che si sente quando un paese intero applaude con lo sfolla gente. E Federico se n'è andato via da solo, Carlo ha posato per i fotografi nudo e Mario si presenta alle elezioni. Che vuoi? La vita è fatta di occasioni. Ma tu balla leggera su questo prato di carta, mia pelle scalza per te l'inchiostro è in offerta e i tuoi piedi veloci hanno scritto centinaia di romanzi già. Balla che chiunque un giorno ballerà, guardando sotto i piedi. Facile, e già che avanzavano cartucce siamo rimasti per vincere anche la pace. Ma lei si è arresa a tavolino E siccome che c'era il tavolino poi sono arrivate le bottiglie, quelle le hanno portate gli amici del sindacato. Il governo ha sacrificato le vergini per pagare il locale. Poi a un certo punto il capo ha detto: adesso facciamo finta che siete voi a comandare, io faccio solo l'aguzzino. Ma che infamia finire la guerra e non avanzare vino, far fuori chi ha fame e poi non avere pane, farsi concorrenza senza mai lavorare, andare a fanculo perché non si sa dove andare. Ma tu balla leggera su questo prato di carta, mi avvene scalza per te l'inchiostro in offerta, e i tuoi piedi veloci hanno scritto centinaia di romanzi già. Balla che chiunque un giorno ballerà, guardando sotto i piedi leggeva il tuo nome. Libertà! Della menzione. Larida, eccoci qua al nostro angolo della menzione. Dunque, stasera alle 21, forse è tardi per dirvelo, però non si sa mai, magari state giusto pensando ma cosa facciamo stasera che non c'è niente da fare, andate a Fico, io non ci sono mai stato, ma alle 21 c'è Valentina Mattarozzi in concerto. Al teatro su... Andrea Ferrario al sax, Luigi Scerra al piano, Gian Nicola Spettigu al basso, Umberto Genovese alla batteria, special guest Igor Palmieri, ma abbiamo un concerto di Valentina Mattarozzi, questa cantante che noi apprezziamo molto, cantante jazz, che farà l'altro invece domani, anzi facciamo prima un... sabato 20 maggio alle ore 21, di nuovo Valentina Mattarozzi, al Teatro del Suffragio di Medicina, ottava edizione di Medicina in Jazz Festival. Domani sera abbiamo Valentina Mattarozzi, Guido Boni e Angela Sette al Teatro del Suffragio con la Dr. Dixie Jazz Band. Dopodiché passiamo a giovedì della settimana prossima, il 24 maggio, che abbiamo nella Project Room del Mambo Rossana Chiesi, Pari e Dispari. L'inaugurazione è alle ore 18. Il Mambo prosegue nella programmazione espositiva della Project Room, dedicata a una ricognizione di protagonisti e vicende tra le più significative per la storia artistica del territorio, presentando un focus incentrato su Rosanna Chiesi, a cura di Lorenzo Balbi, e organizzato in collaborazione con l'archivio storico Pari e Dispari. L'esposizione intende omaggiare con rinnovata attenzione una straordinaria protagonista dell'arte italiana ed internazionale, al cui nome si deve un impegno fondamentale per la conoscenza e la diffusione di alcune delle avanguardie più influenti del secondo Novecento. Area concettuale italiana, poesia visiva, azionismo viennese, movimenti Fluxus e Gutai, arte performativa. Il progetto consente dunque di riscoprirne l'intensa avventura, per la prima volta in un contesto museale, dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2016, attraverso alcune delle testimonianze più rilevanti della sua attività, che negli anni 70 ha trasformato Reggio Emilia e Cavriago in crocevia di correnti artistiche di eccezionale rilievo. Mostra da non mancare, inaugura sabato pomeriggio alle 6 giovedì 24 maggio alle 18 al Mambo. E così abbiamo finito il nostro angolo della menzione. E che fare? Ma ascoltiamo questo qua. Love is just like the faucet, and just know, don't. Sometimes when you think it's not, baby, it has turned off and gone. Questa era naturalmente Valentina Mattarozzi, che se volete potete correre a Fico ed andare a sentire Right Now, oppure Domani a Medicina. Invece ci è arrivato, grazie alla nostra amica Francesca Crispello di Scene Press 44, una cassetta, cioè in realtà ci sono arrivati degli MP3, però c'è una nuova cassetta, ovvero un nastro, un nuovo LP, come si diceva una volta, che però stavolta è su nastro e su cassetta, di Luciano Chessa, che è un pazzo, che alla fine degli anni 90 smette di scrivere delle canzoni e poi improvvisamente se ne va in California, eccetera, dopodiché improvvisamente 20 anni dopo decide di fare un nuovo album, e questo si chiama Canti Felice. E appunto, come un matto, lo registra su cassetta, per cui sentiamo su un quattro piste con dei microfoni degli anni 90, per cui sentiamo i filtri, il vinile, cioè sembra quasi appunto sentiamo gli hiss degli amplificatori, eccetera, proprio come se fosse registrato nel 98, invece è del 2018. Canti Felice, e adesso ci ascoltiamo Se spirasse. Questo è Luciano Chessa. Se spirasse dal mare questa sera una brezza leggera giunta da lontano, muover le onde lente dolcemente, libero allora sarebbe il mio pensiero. Mosse dal profondo, trasmettendo l'incanto d'altre vite, voci, profumi, immagini remote, suoni che orchestrano l'armonia del mondo. Questa sera una brezza leggera giunta da lontano, muover le onde lente dolcemente, libero allora sarebbe il mio pensiero. Montano creste mosse dal profondo, trasmettendo l'incanto d'altre vite, voci, profumi, immagini remote, suoni che orchestrano l'armonia del mondo. Non l'ascolterò mai. Sono Paolo Astei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ciao, sono Paolo Astei e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Che dire, è bello Chiara sentirti così allegra, sentire la tua voce ancora e sentirti così allegra, molto bene, niente, no, molto bene un cazzo, molto male. Comunque questa era la 220esima puntata di Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini, ci risentiamo venerdì prossimo come al solito su Radio Città Fujiko, come al solito dalle 20 alle 21, chissà se avremo Fedra, chissà se no, chi lo sa. A presto, buon fine settimana. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.